in primo piano. Campeggia sulle prime pagine il gelo tra Fini e Berlusconi dopo l'ormai celebre fuori onda del presidente della Camera di un paio di giorni fa. Fini, Berlusconi, mi rispetti, questo è il Corriere della Sera. Fini, ultimatum dal PDL, Repubblica. I giornali più di centrodestra sono i più duri con Fini, traditi da Fini, Libero. Mentre Berlusconi, non voglio più vederlo, questo il giornale. Per amore o per forza, convivenza forzata e per l'unità, il caso Fini scuote il PDL, nel PDL sono sfiniti, giocando con la parola Fini sul Riformista, insomma, il clima è questo 24 ore dopo. L'apertura del Sole 24 ore, tre autorità finanziarie UE, è stata trovata un'intesa all'Ecofin su credito, assicurazione e borse, vigilanza mista statale europea, lo vedremo, nasceranno tre nuove autorità interessanti su in tempi di crisi soprattutto. Come detto, il gelo, non si parlano, Berlusconi dice non lo voglio vedere, questo sarebbe il clima. Qualcuno adombra il fatto che Berlusconi avesse ipotizzato anche una mozione di sfiducia alla Camera, lo scrive Libero in prima pagina. Ora insomma sono altri che parlano, quelli che cercano di gettare un po' di acqua sul fuoco, altri magari che cercano di buttare invece di benzina sul fuoco. Sul Corriere della Sera, Bondi e il duello con l'ex leader di AN. Bondi è colui che insomma se l'è ritrovato al telefono a Ballarò poche ore dopo il fuori onda, un Bondi combattivo. E infatti è un Bondi che dice: le poesie sospendo la produzione e la pubblicazione, le limiterò a momenti privati. Perché? Perché ora è in atto uno scontro, c'è uno scontro drammatico tra alcuni magistrati e Berlusconi, ma non solo, parlo di una profonda alterazione di equilibri e poteri. La lealtà ora è importante, ma lo è altrettanto l'intelligenza politica, e di quella c'è gran bisogno oggi. Un Bondi cambiato, pare più grintoso, è il momento, insomma, dice, dello scontro in atto e quindi di scendere in campo in qualche modo. Su Repubblica il retroscena di Francesco Bei, il retroscena politico del giorno: se si potesse lo sfiducerei io stesso. Questo appunto sarebbe l'atteggiamento, sarebbe sempre perché si parla di retroscena, del Premier nei confronti di Fini, tanto che ha confidato, scrive Bei, di non volerlo vedere più di persona, e quando si è discusso di una possibile richiesta di dimissioni di Fini, Berlusconi ha detto: se fosse possibile proporrei io stesso la mozione, ma non gli forniremo l'alibi perché passi per una vittima. Ovviamente il Corriere della Sera va a intervistare, a colloquiare con Storace, per esempio, uno che conosceva Fini e che ora dice: guardi, è cambiato totalmente, che io non lo conosco più, o recitava in quel periodo oppure recita adesso, dice Storace. La verità è che è bravissimo a galleggiare, se ne infischia di ogni contraddizione. Insomma è uno Storace molto molto duro, più che severo, però nei miei giudizi, dice Storace, sono basito. Leggo che Fini si lamenta perché secondo lui nel PDL non si discute abbastanza. E allora, quando era il nostro grande capo, sa come funzionava? La sua relazione, due sbadigli e poi tutti a casa. Non solo, lui va in TV, lo pizzicano con il fuori onda e deve sembrare tutto normale, ma quando un cronista del Tempo origliò alcuni discorsi critici di La Russa, Matteoli e Gasparri, lui si infuriò al punto di decapitare l'intero partito. Questo è Storace. Su Libero, come detto, Silvio Duro: non gli parlo più. Nelle interviste c'è qualcuno che tenta di ricucire, come Stefania Prestigiacomo, intervistata da Ugo Magri, il ministro dell'ambiente, dice: il fuori onda è stata una brutta gaffa, ma c'è chi sta lavorando per la rottura politica tra il fondatore del PDL e l'altro principale azionista. Non è un complotto, detta così sembrano manovre carbonare segrete, mentre qui ormai è alla luce del sole, dice Stefania Prestigiacomo, che poi dice: io comunque non condivido quello che ha detto Fini nel fuori onda, quelle parole, però un errore l'ha fatto Fini, non doveva fare il presidente della Camera, doveva entrare nell'esecutivo perché è più portato all'agire, mentre la veste istituzionale è importante, però lo tiene un po' fuori dal vivo delle decisioni che vengono prese volta per volta. Sempre nel gioco delle interviste, il Quotidiano Nazionale intervista Donna Assunta, la vedova di Giorgio Almirante. che dice, esplicita, è un malessere grave quello che cova Fini, lo conosco bene, quando fa così è perché ha raggiunto il limite della sopportazione. La verità è che ormai Fini e Berlusconi sono separati in casa e quanto vuole che possa andare avanti questa situazione, dice Donna Assunta a Elena Polidori che l'ha intervista. Insomma, il clima è questo, tanto che in un editoriale Vittorio Feltri titola così: Silvio, ora liberati dalla zavorra Fini. Come detto, sono i più duri sono proprio i giornali di centrodestra. Feltri scrive: non abbiamo ancora capito questo benedetto scopo che avrebbe Fini. La differenza tra i due però è abissale. Fini piace a chi non lo vota, mentre il Cavaliere non piace a nessuno, ma lo votano in massa. Il nostro paese ha tanti problemi, è un suicidio trascurarli per correre appresso alle bizze del Presidente della Camera. Il dissidio è profondo, si è inasprito a causa delle paroline sfuggite al signor dissidente, che è Fini, a proposito di Spatuzza, che hanno rivelato quanto Gianfranco confidi nel mafioso pluriomicida pentito per fare secco il Cavaliere, il quale dice: non lo voglio più vedere. Brutta pagina umana e politica. Sarà difficile dimenticarla. Tanto che, insomma, le parole che si usano sono quelle di separati in casa, di divorzio in vista. Il Corriere della Sera è esplicito. Angelo Panebianco, il suo editoriale di prima pagina, è questo: il divorzio delle libertà. Con la battuta Berlusconi confonde il consenso con l'immunità, Gianfranco Fini, un politico di troppa esperienza per non aver soppesato le parole, ha aperto una crisi al buio all'interno del centrodestra. Scrive Panebianco: i ricucitori cercheranno di rinviare la definitiva resa dei conti, ma sarà appunto un rinvio. Non c'è dubbio che la fine del sodalizio si deve soprattutto al cambiamento di posizioni politiche di Fini su un amplissimo spettro di questioni, un cambiamento così radicale che sembrano non esserci più punti di contatto tra ciò che vuole Fini e ciò che vuole il grosso dello schieramento di cui egli fa ancora ufficialmente parte. E ancora, scrive Panebianco, Fini si trova oggi nella paradossale condizione di essere un leader della destra che riscuote i maggiori consensi a sinistra. Si immagini cosa accadrebbe se sotto un governo di sinistra un importante leader della sinistra prendesse le distanze dal governo così sistematicamente da diventare l'eroe della destra. Insomma, la situazione politica è questa, tanto che il Sole 24 Ore fa che cosa? Un sondaggio Sole 24 Ore Ipsos su quelle che sono gli orientamenti degli italiani. Come dire, dove vanno i consensi? Voglio tradurlo ancora così: se si votasse oggi. Ebbene, nel sondaggio Ipsos fatto per il Sole 24 Ore tiene l'Italia bipolare. Il PDL salirebbe al momento al 38% rispetto al 35,3% delle europee del 2009, mentre il Partito Democratico arriverebbe al 30%, quindi più 4,4% rispetto alle europee del 2009. Dunque, i due partiti di maggioranza che sarebbero in guadagno. In questo momento il centrodestra vincerebbe ancora con questo sondaggio. C'è anche un commento di Stefano Folli: il sondaggio Ipsos Il Sole 24 Ore, commentato anche da Roberto Dalimonte, il politologo, spiega perché se si votasse oggi il centrodestra tornerebbe a vincere nella perdurante debolezza dell'opposizione. Una fotografia piuttosto chiara di un paese complicato. E poi Folli parla comunque anche lui di frattura di fatto insanabile tra Berlusconi e Fini, due soci fondatori del Popolo della Libertà, un qualcosa che ha di inquietante, dimostra che il nostro bipolarismo non regge davanti a un fuori onda, cioè a un microfono lasciato aperto che ha raccolto toni e umori poco ortodossi del Presidente della Camera. Anche se quel fuori onda, dice Folli, è un pretesto, è un po' come la pistola di Sarajevo che scatena le tensioni represse nel centrodestra. Comunque interessante questo sondaggio politico. La politica poi si interroga anche sulla giornata di domani. Domani, sappiamo, è la giornata in cui il pentito celebre Spatuzza parlerà a Torino nel processo dell'Utri. Dagli omicidi al pentito antipremier, Utignusu adesso studia teologia. È un bel ritratto che fa Attilio Bolzoni di chi è Gaspare Spatuzza su Repubblica. Beh, chi è colui che scrive Bolzoni? Certo, ripeterà quello che ha già confessato ai magistrati di Firenze a maggio, a giugno, a luglio, risucchiando nelle indagini autore 1 e autore 2, cioè Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, ma è anche colui che in passato si è macchiato di delitti davvero incredibili. Il 23 novembre 93, quando insieme ad altri 5 è andato a prendere al galoppatoio il piccolo Giuseppe, il figlio del pentito santo di Matteo, lui e gli altri avevano addosso una blusa da poliziotti, l'auto con lampeggiante, parrucca e barbe finti. Rapirono il bimbo, lo consegnarono a un altro macellaio, Giovanni Brusca. Dopo 799 giorni di prigionia, Giuseppe pesava 30 kg, l'hanno strangolato. O come la sera del 15 settembre 93, quando con Salvatore Grigoli Spatuzza si avvicinò a Don Pino Puglisi e lo uccise mentre il prete gli sorrideva. E ancora un altro dei sicari, Giuseppe Ciaramitaro, ha confessato al pubblico ministero Alfonso Sabella: un giorno avevamo appena strangolato un ladro e c'era venuta fame. Ho comprato i panini. Spatuzza in una mano aveva il panino e nell'altra il mestolo che serviva ad ammorbidire tibie e femori dell'uomo che stava sciogliendo nell'acido. Questo è Spatuzza, che domani parlerà nel ritratto di Attilio Bolzoni. Il prezzo dei pentiti di mafia, 400 milioni in 6 anni, sia Libero che il Giornale. Questa la leggo da Libero, ma anche il Giornale dice: ora lo pagheremo noi se entra nel programma di protezione. Libero spiega chi sono i pentiti in Italia: 833, 3.000 parenti. Si chiamano collaboratori di giustizia, in realtà in termine tecnico. A decidere chi ha diritto ai soldi è una commissione presieduta dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Gli altri membri invece della commissione, gli altri 7 membri, sono funzionari di polizia, uomini delle forze dell'ordine, tenuti segreti nello stretto riservo. La politica però si ingarbuglia ancora di più per la denuncia che ha fatto l'editore De Benedetti, Carlo De Benedetti. Lo troviamo, è su tutti i giornali, la leggo dal Corriere: la denuncia di De Benedetti, manomessa la mia auto. È stato trovato un vano nel parafango dove è possibile che sia stata inserita una cimice. Nell'Audi A8 blu utilizzata dal presidente del gruppo Espresso c'era un vano vicino al parafango anteriore di 10-15 centimetri. Nessuno ipotizza apertamente un'operazione di spionaggio, ma certo, dice il suo avvocato, lo spazio è quello che sembra a regola d'arte e fatto in modo doloso per inserire qualcosa. Tanto che Il Fatto lo mette in apertura di prima pagina, mette insomma un po' di cose in realtà al Fatto Quotidiano: spie, ricatti ed elezioni anticipate. De Benedetti denuncia, Feltri parla di altri video, perché mentre De Benedetti dice mi spiano, la denuncia dell'ingegnere, c'è anche Feltri che è andato da Klaus Davi a fare un'intervista e ha detto: attenzione, perché girano nuovi video hard realizzati da alcuni trans che ritraggono politici colti sul fatto. Il clima politico è questo, vi piaccia o no. In tutto questo stride un po' l'appello del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che dice la politica ritrovi la misura, e invece la misura letta dai giornali è questa. In primo piano. 3 autority finanziarie UE su credito, assicurazioni e borse vigilanza mista statale europea. Questo è il titolo, come detto, di apertura del Sole 24 Ore, vale a dire che dopo settimane di trattative la riunione dell'Ecofin ha raggiunto appunto un compromesso sulla vigilanza per il credito e la finanza. Sono istituite 3 nuove authority, una per le banche con sede a Londra, una per le assicurazioni, una per le borse. Accordo in Europa sulla vigilanza. All'interno, a pagina 3 del Sole, Adriana Cerretelli spiega bene come dovrebbero funzionare, anche se ora la palla passa all'Europarlamento, non è detto che vengano approvate così in maniera blindata, e come insomma convivranno queste 3 authority anche con le autorità nazionali, perché ovviamente quello del raccordo a questo punto è molto importante. Trovate anche 2 pagine interessanti all'interno del Sole, a pagina 8 e 9, su il clima e il vertice di Copenaghen. Mancano 4 giorni, il fallimento, qualcuno dice, o un mancato accordo è quasi certo. anche se c'è un'intervista ad Aldo Fumagalli Romario, che è imprenditore milanese, presidente della Commissione Sviluppo Sostenibile della Confindustria, che dice: ci auguriamo proprio che a Copenaghen si raggiunga il successo, che non è intanto una cifra, un numero, un dato di emissione, ma l'importante, dice Fumagalli in questa intervista a Jacopo Giliberto, è che tutti i paesi decidano di condividere un percorso e un impegno comune nell'affrontare una via che in tempi brevi permetta di condividere impegni vincolanti per tutti. Insomma, regole certe, questo è quello che si chiede, regole certe per l'industria, infatti il titolo dell'articolo di Jacopo Giliberto. Ci sono due notizie di cronaca brutte, davvero brutte, che trovate sui vari giornali. Beh, una è quella che viene da Pistoia. La leggo dal Corriere della Sera: botte e umiliazione ai bimbi del nido. È una vicenda di un nido privato, il Cipe Chop si chiama, a Pistoia. Le riprese video sono da fin dell'orrore, l'asilo sembra un lager, ci sono bimbi di 2-3 anni costretti a stare seduti per ore ammutoliti, spaventati, non disegnano, non parlano, non giocano, violenze psicologiche, maltrattamenti, forse torture. L'arresto di due maestre, Anna Laura Scuderi e Elena Pesce, arrestate ieri, sarebbero state incastrate da telecamere disposte e messe dalla procura all'interno, che hanno filmato davvero delle violenze orribili, con bambini che avevano sempre arrossamenti, a volte ematomi, alcuni addirittura pare lussazioni, perché le botte erano all'ordine del giorno come le vessazioni, le punizioni. Una storia davvero incredibile. Su Repubblica i genitori tra incredulità e rabbia, c'è chi dice: è un blitz vergognoso, io le conosco, sono severe ma brave. C'è invece chi dice: meno male, mio figlio piangeva sempre, chiedeva da bere appena usciva, come se non gli dessero per ore da bere là dentro. Una volta gli ho trovato il segno di uno strattonamento su un braccio, finché ovviamente l'ho ritirato, ho detto basta. Una storia davvero, davvero molto, molto brutta. Come una storia molto brutta che trovate dovunque è quella di una undicenne cinese, Anni Ye si chiamava. Ne racconta drammaticamente molto bene la sua storia Pierangelo Sapegno, che è inviato per La Stampa e è andato a Macerata. La bambina cinese morta di lavoro nero, Anni Ye. Così piccola, così innocente, una bambina di 11 anni che è morta per esalazione da solvente in un laboratorio diroccato dove 3 cinesi lavoravano, forse assieme a lei, le tomaie per l'industria delle scarpe, tra le macchine da cucina arrugginite e dei materassi accatastati vicino a una pressa appena rischiarata da una luce misera e stenta che pende ancora adesso dal soffitto. Posti come questo, scrive Sapegno, verso Civitanova ce ne sono un mucchio, tutto attorno alle colline coltivate a Gran Turco, veri e propri ricettacoli di lavoro nero e sfruttamento selvaggio di cinesi, pakistani, indiani. Come se l'Italia mettesse insieme le due facce della nostra realtà, la dolcezza di quei dossi, uno dietro l'altro, pettinati così mirabilmente dall'uomo, e l'avvilimento di una miseria cupa, dickensiana, che ci convive accanto. Sua mamma, la mamma di Anni Ye, 33 anni, si chiama Yang Li Fen, ma qui preferisce farsi chiamare Giulia. È oggi una donna disperata e dice che non sapeva che sua figlia fosse in quel posto a rischiare di morire. Anni era iscritta alla quinta elementare a San Claudio di Corridonia, 3 chilometri da qui. Finiva di studiare e veniva qui dove fanno le tomaie, come nella Londra dell'Ottocento. E qui, dicono i testimoni, i cinesi mettevano delle piantine per coltivare il pan di zucchero. Nel cortile c'è un piccolo pozzo molto decadente, sulla scala delle scarpe abbandonate, piccole, consunte come un segno di vita sconfitta. A fianco un pollaio, sul retro una porticina. La piccola cinese morta nel casolare del lavoro nero, questa tragedia delle Marche, raccontata da Pierangelo Sapegno, ma raccontata da diversi giornali, davvero, davvero molto, molto duro come racconto, il racconto che ha visto coinvolta questa undicenne cinese. Voglio concludere fermandomi qui, ricordando però il sondaggio di oggi, che tra l'altro trovate anche con tantissimi articoli all'interno dei giornali, dal Corriere al Messaggero, Repubblica, la nuova campagna di Brunetta, che dice nei titoli di coda e di testa, insomma in tutti i programmi della RAI, voglio che vengano pubblicati i compensi dei conduttori. C'è già ovviamente tutte le foto, Bruno Vespa con il suo 1.200.000 euro, Michele Santoro con i suoi 684.000, c'è chi diceva bene, c'è chi diceva male. Lucia Annunziata, che è stato presidente della RAI, dice l'idea è geniale, ne scopriremo delle belle. C'è chi dice no, assolutamente, così si favorisce Mediaset, che invece loro non lo devono fare. Per esempio Massimo Giletti dice Mediaset sarà felice. Carlo Conti dice diciamo quanto rende un programma oltre quanto costa il conduttore. Che ne pensate? Giusto pubblicare nei titoli di coda i compensi dei conduttori giornalisti RAI? Votate su radio24.it, ora GR24.